Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Il futuro è passato e non ce ne siamo nemmeno accorti. Lei può dire che una persona è capace o meno di guidare una macchina se si trova una macchina pronta a partire. Lei immagini che io mi sono seduta su un sedile appoggiato su un telaio, non c'era il blocchetto per l'accensione, non ho trovato il volante, non ho trovato i pedali, non ho trovato il cambio, ero oggettivamente. Lo diciamo subito perché secondo me lei ce l'ha lì sulla punta della lingua, io lo vedo, lei vuole parlare di Marra. È evidente, ma infatti io le sto dicendo che alla luce di quello che la procura sta scoprendo e di quello che è successo oggi, io ho commesso un errore, un grave errore di valutazione. Ripeto, è stato commesso un errore, se vuole io glielo poi ogni tanto tiro la cordicella e lo ripeto. No, io non voglio assolutamente. Un errore si può comprendere, però si è un po' ritorniamo... sparare sulla Croce Rossa, però io la capisco, per me va bene, non sono qui apposta. Allora, lei è mai venuto sui tetti del Campidoglio? No, in vita vengo volentieri. Io li frequento da quando ero all'opposizione e io andavo sui tetti a mangiare. Primavera, ci sono i gabbiani che nidificano, è anche molto carino da vedere. Lei sa che i gabbiani ci sono per la mondezza, eh? E allora Virginia Raggi, riconfermata di fatto sindaco di Roma, visto che è stato respinto un ricorso presentato da un avvocato del Partito Democratico, va da Floris di martedì. E vabbè, l'avete sentita, che tira la cordicella e ripete che Marra è stato un errore. Circo equestre. De Luca, calmo. No, capisco, qua sui 5 Stelle De Luca ora vuole accelerare il nostro progetto di condurre anche il Parlamento di 24 mattino. Farabutti di ogni tipo. Però, ecco, mi raccomando, cioè, il linguaggio è importante, le parole contano, se no qua trasformiamo tutto appunto. Autocontrollo. Oh, ecco, già così va meglio, caro De Luca, così, perché avere un microfono poi è una responsabilità. Io ti faccio condurre la trasmissione, presidente, però... Training autogeno. No, così, più sereno, più tranquillo, e metteremo in atto questa pratica. Mortificazione della carne e dello spirito. Oh, adesso, De Luca, va bene, sì, vedo che sei entrato nella parte, un po'... Sì, anche un po' di più sostenuto, adesso non è che bisogna proprio buttarsi così giù. Sarebbe una goduria. Lo so, tanti vorrebbero qui essere, svegliarsi alle 5 del mattino e venire qui a condurre alle 6.30, 24 mattino, chi non lo vorrebbe fare? Licenziato. Così, alle 6.34 minuti la sentenza è arrivata. Allora saluto Peter Bescapè per l'ultima volta, qui saluto anche Lorenzo Nespoli, vi affido a Vincenzo De Luca che condurrà da domani. Grazie Peter, ti ringrazio, oggi caffè offerto doppio. Allora, non lo so, oppure facciamo condurre Paola Saluzzi, eccoci, la nostra Paola. Rimani al posto tuo con buona pace di chiunque voglia condurre. Ma lo senti com'è bravo De Luca, come ai tempi. Ma succederebbe una rivoluzione. Ma no, ma sai che senti che tempi radiofonici che ha. Milan, stai al tuo posto. Stai sereno. Perché questo è il posto, sembrava, e lì ti vogliamo. Sembrava Milan, stai sereno. Ma per favore, buongiorno Alino. Buongiorno. La nostra rossa del mercoledì. Oggi, anche oggi, cara Paola, abbiamo un direttore. Ma il nostro direttore Luca Dini ha un po' di tosse. E quindi gli manderemo adesso la propoli. ma abbiamo il nostro altro grande direttore, Umberto Brindani, direttore di oggi. Noi tutti li abbiamo i direttori. Buongiorno direttore. Buongiorno Alessandro, buongiorno Paola, buongiorno a tutti. Sei galvanizzato, ho visto una foto alla Silvio Piola oggi in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport. C'è qualcuno che ha fatto una rovesciata dell'Inter. Una rovesciata epocale di Mourinho. Mamma mia, di Mourinho, neanche avessi detto di Icardi. Una rovesciata di Mourinho. Capite che il mondo va alla rovescia. Un giocatore con i piedi poco educati, no? Come dicono. È come quando fece un Eurogol in rovesciata dal limite dell'area Mexes, e lo ricordo ancora. Cioè, capite, il mondo va alla rovescia. D'altronde uno apre i giornali. Allora, si potrebbe fare così. Mentre apriamo il Parlamento, dai, apriamo il Parlamento. Voglio farvi un quiz. Se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Allora, cara Paola, caro Umberto, ci sono due presidenti, uno americano e uno cinese. Sembra l'inizio di una barzelletta. Esatto. È un quiz. C'è un presidente americano e c'è un presidente cinese. C'è uno che dice protezionismo, protezionismo, protezionismo, e uno che dice libero mercato, liberismo, libero mercato. Forza avanti. Chi è dei due? Umberto. Il mondo alla rovescia. Il comunista che vuole il liberismo. Esatto. Non si capisce più niente. No, zero. Zero. Il presidente cinese è andato a Davos, ha detto: ma no, questo protezionismo, questa visione chiusa del mondo, com'è possibile? Ci vuole il libero mercato, ci vuole il progresso, ci vuole la crescita. Cara Paola, invece di solito in questi casi, nella peggiore si parla un ottimista, vi parla un ottimista spietata come me, è noto, nella peggiore o migliore delle situazioni scoppia una guerra. No. Perché voglio dire, esatto, quello che stiamo dimenticando, non certo per protezionismo e liberismo, ma quello che stiamo dimenticando è che l'unico grave, vero errore comunitario, mi verrebbe da dire, e senza confini, sta nel fatto di non leggere la storia, non rileggerla e non guardarsi alle spalle. Quindi è un mondo che sta rischiando. Quanti sono il rapporto dell'Oxfam? I ricchi rispetto ai poveri? Sì, sono 8 ricchi. 8 ricchi su quanti? 3,6 miliardi. Guadagnano come 3,6 miliardi di persone. Ma una cifretta, sicura. Tu dici che questa disparità non ti piace molto. No, porta male, mettiamola così, porta male. Ognuno tocchi ferro come può, ma porta male. Stamattina mi sono svegliata così. Direttore, per essere ottimista, per essere ottimista, ci evoca un rischio di una bella guerra globale. Hai aperto il Parlamento con i grandi temi internazionali, allora se vuoi proprio dirla tutta, il mondo alla rovescia, abbiamo pure Tajani presidente del Parlamento europeo. Vabbè, direttore, così sei scorretto, cosa ti ha fatto Tajani? Ex portavoce, effettivamente. Ex giornalista, un ex collega. Quindi attenzione, grande rispetto per la casta suprema, quella dei giornalisti. Insomma, ti do un'anticipazione su una cosa che esce domani. Sì. Su oggi. Il nostro Mauro Suttora, che insomma bazzica il Parlamento europeo, se ne intende, ha calcolato, ma sai quanto prende realmente un europarlamentare? Dai, mettiamo in allegria i nostri ascoltatori che si sono appena svegliati, come il fornaio di Ravarino, il nostro Marco che fa il pane. Sta facendo colazione, sì, sul taxi. Quanto? 44.000 euro netti al mese. No, 44 gatti. È un calcolo... Ma com'è possibile? Perché ci sono, come dire, gli emolumenti che loro percepiscono, 6.200 di stipendio netto, più varie amenità, arrivano a 18.000 euro. Ma poi hanno 21.000 euro a disposizione per i portaborse e possono scegliere quelli che vogliono. Sì. E alcuni, come dire, aiutano la famiglia e gli amici. Poi ci sono 5.000 euro per persone che possono portare a visitare il Parlamento Europeo. Il totale fa 44.000 euro, cioè, 2.600.000 euro nell'arco di 5 anni. Cosa vuol dire portare persone? Cioè far la gita? Cioè io porto persone. Cosa vuol dire 5.000 euro per portare persone? Sono delle cose pazzesche, te lo devi leggere, guarda. Domani del bene e del male. Domani lo leggerò, ma io, sai queste cose? Ecco, devo dirlo, cari italiani, io le leggo sorridendo. Non bisogna essere invidiosi, non bisogna essere rancorosi. E invece la bile degli italiani, quando leggono queste cose, caro direttore, poi, insomma, ci sono dei problemi fisici e... Non so, tu Paola come li leggi questi articoli? Sei... Ma io ho imparato da anni a tenere le mani sul volante, ecco, tutto, e questa è una ginnastica ecco. Olistica, adesso sì. Parlo stamattina, che ci hai insegnato tu Alessandro, perché tu, Alino, sì. Perché questo insomma tu ci hai insegnato a dire mani sul volante, esatto. E sono cifre, sono soldi che chiaramente si risponderà, e questo il nostro direttore lo sa, meglio di noi, si risponderà che appartengono ad una serie di norme, di regole che sono state evidentemente varate e tarate sul lavoro degli europarlamentari. Sì. Ribadiamo, cercare di fare allora di questo lavoro virtù, come tantissimi in Europa fanno, come tanta ricerca c'è in Europa per fare di questo lavoro virtù. Poi ci sono delle discrepanze, è chiaro che non sia il parlamentare europeo a dover pagare una situazione diversa nei campi di accoglienza in Serbia, scena che stiamo vedendo, noi siamo qui a lottare con la neve e col disastro del cattivo tempo, poi però vediamo le immagini che sono sotto gli occhi di tutti, sì. Non è che possiamo fingere di non vedere. Allora la domanda è, che fare per queste persone? E torniamo al cinese che dice liberismo e a quell'altro che dice protezionismo. Gli 8 contro i 33. Perché poi vedi quelle immagini, poi c'è sempre gente che dice i nostri, allora come se i nostri lo sono, no? Sì, come certo. Se fosse la partita certo Inter Milan o fosse la partita Coppa di Barça. Sì. Certo che effettivamente 44.000 euro sono abbastanza, tanti. Eh? Sono tanti, 44.000 euro. Allora guarda, voglio continuare con questo tono, andando sul Fatto Quotidiano di oggi. Ma voi lo sapevate che i nostri parlamentari sono ubiqui? Anzi, come avrebbe detto il grande Nino Frassica, obliqui. Hanno il dono dell'ubiquità, i nostri parlamentari. Hanno il dono dell'ubiquità. Oggi il Fatto Quotidiano calcola tutti i parlamentari che si mettono in missione, e anche qui la missione da 3.500 euro netti. E se uno non è in missione, non è in aula, glieli scalano 205 euro al giorno, ogni seduta che salta. Se uno invece si mette in missione, poi magari va a fare i fatti propri, perché questo racconta il Fatto Quotidiano, anche chi va in palestra, anche chi va in TV, anche chi va a iniziative proprio personali, e beh, i soldi se li tiene. E allora, caro direttore, che differenza c'è tra un parlamentare che si mette in missione e va a prendere i soldi e il dipendente comunale di Sanremo pizzicato in mutande a firmare il cartellino? Bravo, bravo, ci siamo svegliati un po'. Populisti. No, vabbè, ma dai, ma è così, cioè sono quelli che tuonano contro i furbetti del cartellino e fanno i furbetti del missionino, ma dai, ma scusa, ma che differenza c'è tra timbrare un cartellino e andare a fare altro e risultare in missione per prendere soldi e andare in palestra per un parlamentare? Che differenza fa? Assolutamente nessuna, sono con te, su tutta la linea. No, con la differenza che quello fa la legge per andare contro, giustamente, i furbetti del cartellino. Ecco, quindi... Il direttore, io ho una proposta. Attenzione. Raccogliere nel corso dell'anno il dizionario Alino, perché tira fuori una al minuto. Allora, il furbetto del missionino. Alle note... Mani sul volante, missionino, adesso siamo onesti, parliamo anche con chi ci sta ascoltando, sì. Da casa, dovunque siate, ma vi sarebbe mai venuto in mente missionino? No, mi è venuto in mente mentre lo dicevo. Ho detto radiofonica, ma parliamo. Ho detto il furbetto del cartellino e dovevo fare una rima baciata. Ma io ero lì che cercavo, e poi il furbetto del missionino. Il missionino. Bene. Ma no, adesso, al di là di tutto, andate a vederli, ma tutti, ci sono Lotti, Di Maio anche, infatti il Fatto Quotidiano, che insomma ha un occhio di riguardo per il 5 Stelle, dice tu cuoque, Di Maio, anche tu, beccato, a volte in missione, Lotti del PD, Brunetta, ci sono vari casi, Michela Brambilla, poi non so, vanno accertati, ma ci sono, caro Brindani. Che vogliamo dire? No, niente. Vogliamo darci qualche altra tafazzata stamattina? Non lo so, ve ne do un'altra questa. Parte a marzo la lotteria degli scontrini fiscali. Questa è bellissima. Dopo il traffico ripartiamo da lì. Sapete che c'è questa idea di tenere lo scontrino fiscale come si fa in alcune parti del mondo e fare mega sorteggione in sala mensa. Tra poco ve lo spieghiamo. Milan, manda il traffico, devo entrare in tangenziale. Milan, sì, facciamoli lavorare per i lavori socialmente utili, ma poi chi li coordina? I soliti bravoni. Milan, e sti immigrati che vanno a lavorare, bisognerà dopo chiamare Alfano che gli faccia da traduttore per dirgli come devono fare e cosa devono fare. Ma Alessandro, scusa, a che ora viene considerata la proiezione dell'ombra sull'asfalto? A mezzogiorno o alle 5 o di sera o alle 7 del mattino? Perché i costi variano perché l'ombra è diversa. Mi viene da ridere. Come vede il fatto che ci sia un fronte di stilisti che non vuole vestire Melania? Tutte stronzate. A me mi sembra una roba talmente scema, per gente scema, per cui non mi sembrano delle, volente o nolente, Trump è stato eletto dagli americani, è l'uomo più potente del mondo, e poi se sono scemi e non vogliono dare i vestiti a Melania, peggio per loro, bravi chi glieli dà. Capito Brindani, capito cara Paola Saluzzi, Briatore che andrà da Trump, Umberto, lui c'è, tu ci sei invitato da Trump? Non toccatemi Briatore, perché dice sempre delle grandi verità. Ma no, ma questa infatti è assolutamente vera, ma questo... No, ha detto una cosa giustissima, cioè sì. La corsa adesso a non ti vesto, non ti frequento, non ti guardo, perché la moglie mi sembra una baggianata. Ma no, ma è ridicola, cosmiche. Ma è ridicola. Ma soprattutto è ridicola la polemica, ti boicotto se dai i vestiti. Ma per favore, ma per cortesia. Ma no, siamo a questi livelli. Comunque, siete pronti per la lotteria degli scontrini fiscali? Parte in via sperimentale a marzo, e quindi questo dovrebbe incentivare le persone a chiedere e a tenere gli scontrini fiscali. In alcuni paesi Brindani lo fanno, in alcuni infatti non so esattamente in quali, però è una cosa che evidentemente da qualche altra parte funziona, chissà. Io sono ottimista, potrebbe anche funzionare, dai. Cioè, potrebbe essere un modo, così uno entra dal panettiere 3 euro e dice pretende lo scontrino, perché dietro c'è un numero che ogni mese andrebbe, ci sarebbe questa lotteria per estrarre dei premi, non so. E quindi magari viene speso qualche milione o miliardo in meno in gratta e vinci, come sappiamo sono anche cose che mandano in rovina certe famiglie. Questa è una lettura seconda che non avevo avuto, effettivamente. Cioè, non solo contrastare l'evasione fiscale nel senso chiedere lo scontrino, ma anche contrastare altri tipi di lotterie, mettiamola così. Insomma, la dipendenza dal gioco, sulla quale peraltro lo Stato ci posta i soldi, non dimentichiamolo mai. Questo sì. Paola, che fai? Tu chiederai lo scontrino di più? No, non lo so. No, cercherò di non buttarli. di solito questo è un problema che voi uomini non avete. Allora, di solito lo scontrino... Ma perché anche noi facciamo la spesa, Di attenzione. Non dubito, però lo scontrino. Allora, lo scontrino, Alino, quando tu fai la spesa, lo scontrino finisce in fondo alla busta della spesa, vero, no? Sì. Invece perché lo scontrino viene conservato, almeno parlo per me, nel portafoglio. E a un certo punto tu apri il portafoglio e c'è una produzione di carta. Tipo fisarmonica, che, quando diventa così, fisarmonica il portafoglio. Perché poi cerco di essere anche bella ordinata, no? Di metterli quei messi per bene, eccetera. A un certo punto diventa troppo. E quindi io conserverò gli scontrini in un'apposita bustina per scontrini con su scritto buona fortuna, perché l'idea è giusta, può far sorridere, può far dire ma figurati, però sai, l'idea della lotteria, l'idea del poter vincere qualcosa, noi compriamo un biglietto della lotteria, no? Sì. Sempre, il biglietto della lotteria di Capodanno viene sempre comprato nella speranza di essere quantomeno nella lista anche di premi minori, perché questo è, allora conserviamo alla stessa maniera lo scontrino e vediamo che cosa... Devo capire però come sarà fatta poi la lotteria. Cioè è chiaro. Però attenzione, perché le grandi verità di Paola Saluzzi lanciate alle 6:30 del mattino, arriva il messaggio di Piero che dice: stamani Paola ha detto ciò che io sostengo da anni, i burattinai si rileggano la storia perché ci sono tutti gli ingredienti per sfociare in una prossima guerra. Ma io ringrazio, mi guardo bene dall'augurare che tutto sia così. Però ovviamente buona giornata a tutti, buon neonazista, sì, quando c'è un partito neonazista che non viene considerato fuori legge in Germania, allora lì ti fermi un attimo, pur nella civilissima Germania, attenzione, di persone che sono lontane anni luce da ciò che è stato il passato, però il concetto è: se hai il marcio sotto casa, stai attento, il concetto è questo. Comunque non è che aggiungiamo infatti buon mercoledì 18 gennaio a tutti coloro che ci ascoltano. Ci chiede Daniela anche gli scontrini dei supermercati, vedi che già subito si diffonde, brindati, la gente inizia a dire, ecco, in teoria gli scontrini è in via sperimentale, l'ho letta sul Secolo XIX, in realtà la vera lotteria dovrebbe partire nel 2018, questa. Ci vorrà il porta scontrini, il portafoglio. Bella questa idea. Ma poi i ladri di scontrini nasceranno. Cioè, capito? Professione. Quelli che i ladri di scontrini, quelli che in cambio le do 50 centesimi, mi dà lo scontrino, perché secondo me questo è quello vincente. Sì. Saremo travolti dagli scontrini come ai tempi dei mini assegni, vi ricordate? Mamma mia, che incubo. È vero, sì, perché noi, la storia che torna, noi italiani sappiamo mettere sempre in burla tutto. Allora, sempre notizie mondo che cambia, attenzione, oggi ho letto sul Giorno in una pagina questa: pare che alle feste, anzi alle orge del prete di Padova partecipassero altri due sacerdoti. No, questo per racconto, favore. Racconto. No. Ma ho detto, e fin qui già ce n'era, poi c'era un trafiletto a fianco sempre sul Giorno, è: prete spezza un mignolo all'amante. E dico, con questa, qualche dettaglio in più non ce lo puoi dare. No, lo so, pare che sia successo in canonica a Ravenna. No, in realtà la questione è molto seria, perché l'amante è la perpetua e donna, e quindi c'è stato un mignolo rotto, non si capisce bene, e anche una condanna, non per lesioni, ma per, non lo so, i dettagli li trovate sul Giorno, informatevi, siete due giornalisti, approfondite la questione. Capite che sembra che il mondo vada un po' alla rovescia, uno si sveglia il 18 gennaio e dice: ma succedono delle cose che... E torna prepotentemente in buon umore. Scusa, mi dispiace questo succede così. Allora, caro Brindani, cara Saluzzi, visto che il clima è molto goliardico, vogliamo reistituire in conclusione il premio Giachetti, possiamo farlo oggi, il premio Giachetti, d'altronde ogni tanto come il culo. Avete la faccia come il culo. Caro direttore, vuoi assegnare il premio Giachetti a qualcuno questa settimana? Mi viene in mente che non abbiamo parlato della Raggi, non che voglia assegnarle il premio, ma mi fa un po' ridere che nella sentenza hanno sbagliato il nome dell'avvocato. Sì. Che era vagabondo, che ha già un nome strano, poverino. Si chiama Monello. L'hanno chiamato Vagabondo Monello. I giudici hanno sbagliato Vagabondo Monello. Quindi assegnerei il premio Giachetti agli estensori della sentenza. Va bene. No, ma no. Cara Paola, che alle 10 sei in onda su Sky, cosa ci dici? Io sto continuando a lanciare questo. Voi non lo sapete, ma lui lo sa. Ah. Lui o lei lo sa. Ah, ho capito. Le persone che negano la realtà. Allora, ah, persona guarda, che nega la realtà. Questa Brindani oggi vince il premio Giachetti. Va bene, Brindani, devi fare un'inchiesta perché ci lancia sempre queste. Lui sa, lui che ci ascolta sa che vince il premio Giachetti. Saluzzi non ci dice nulla di più. Va bene, vi devo salutare domani in edicola. Oggi, domani, oggi, è sempre questa cosa. Dobbiamo cambiare il nome della testata. Domani sarà in edicola oggi di Umberto Brindani e alle 10 Paola Saluzzi. Ciao, alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Anch'io, Alessandro Mina, e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti schei. 24 mattino. Sono le 7:19 minuti, buongiorno e ben ritrovati cari amici di 24 mattino. Questo è lo spazio dedicato alla lettura dei giornali e alla rassegna stampa. Siamo qui pronti a vedere che cosa ci offrono i quotidiani oggi, andiamo. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. In questo mercoledì 18 gennaio, intanto i titoli, c'è chi si concentra sulla Gran Bretagna, fuori dal mercato unico europeo, e l'apertura del Sole 24 Ore, così come di Repubblica, Brexit, Londra alza il suo muro, via dall'Unione Europea e dal mercato comune. Anche la stampa, May, cioè il premier britannico, subito fuori da questa Europa. C'è un'intervista a Prodi, l'apertura del giorno, la mia Unione Europea è morta. Via dalla pazza Unione Europea è il titolo anche di Avvenire in prima pagina. Mentre il Corriere della Sera, Mattarella all'Unione Europea, rigore sui conti anche sui migranti, nel giorno in cui è arrivata da Bruxelles la lettera che boccia il bilancio italiano. Per il giornale invece riscossa tricolore, un italiano in cima all'Europa, e Tajani di Forza Italia eletto presidente dell'Europarlamento. Il richiamo di Mattarella anche per il Messaggero in prima pagina, Unione Europea rigore anche sui migranti. Mentre le banche, per il Fatto Quotidiano, casta delle banche, 40.000 consiglieri stipendiati per dire che tutto va bene, è l'apertura. La Verità invece ha un'apertura esclusiva perché parla l'ex responsabile, o meglio non è che parli, ma è un verbale dell'ex responsabile vigilanza interna della banca UBI che accusa la stessa banca riciclaggio e operazioni vietate. La replica della banca, i magistrati non ci hanno contestato quei reati, ma è un esclusivo della Verità. Riciclaggio, operazioni vietate, un dirigente della banca accusa UBI. Vedremo altre aperture. Intanto voglio subito saltare sul Fatto Quotidiano per raccontare l'inchiesta di Thomas McKinson a pagina 2 e 3 per dire anche una questione, mettendola così. Allora, nello stipendio dei parlamentari ci sono 3.500 euro al mese, netti, che vengono dati a meno che il parlamentare non sia assente. A ogni seduta in cui è assente ingiustificato alla Camera o al Senato, gli vengono tolti 206,58 euro. Però c'è un trucco. Sono molti i parlamentari che si mettono in missione sul territorio. In realtà, scrive il Fatto Quotidiano, vanno a farsi i fatti propri e per questo non perdono i 206,58 euro a seduta. Ora io vi chiedo, che differenza c'è tra un parlamentare che fa così e il dipendente comunale in mutande a Sanremo che timbra e va a farsi i fatti propri? A mio modo di vedere, nessuna. Anzi, se volete, c'è anche un aggravante, perché chi sta in Parlamento è il legislatore e quindi dovrebbe, e anzi fa le leggi, e magari fa le leggi dure per sanzionare giustamente il dipendente pubblico che fa il furbetto. E allora ecco qua, il Fatto Quotidiano, Lotti, Di Maio and Company, tutti furbetti della missione, non vanno in aula ma risultano impegnati in attività istituzionali. Renato Brunetta che sta in TV anziché in aula, leggo dal Fatto, Michela Vittoria Brambilla che si defila dalle sedute per inaugurare ipermercati, Valentina Vezzali, che esercita il mandato direttamente in palestra. A svuotare il Parlamento contribuisce un esercito di deputati in libera uscita permanente che si dileguano dai lavori d'aula e commissione per farsi i fatti proprio del partito, avendo però cura di farsi pagare come se fossero lì. Un po' come i dipendenti del Comune di Sanremo. Ecco, vedete, non l'avevo neanche letta questa frase. Senza neppure la fatica di strisciare un cartellino. Tra i campioni spiccano Luca Lottis, già sottosegretario, che riusciva a collezionare più missioni del ministro degli esteri. Il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, pizzicato in missione tra i banchetti del no. Sì, Di Maio, tu cuoque. Evidentemente questo costa al fatto che strizza sempre un po' l'occhiolino al 5 Stelle. Comunque ci sono vari casi. Per esempio, Luca Lotti, che inaugura il cantiere del Palazzo di Giustizia a Reggio Calabria e partecipa a un convegno l'11 marzo 2016. Michela Brambilla, in aula si vota la legge sul consumo di suolo e l'ex ministro inaugurava un negozio pet friendly, cioè amico degli animali, in un ipermercato della città emiliana lo stesso giorno. Risultava in missione? Questo è il racconto di pagina 2 e 3 del Fatto Quotidiano. Va bene, a proposito di soldi, il Secolo XIX invece racconta con Carlo Gravina, pagina 5, che parte la famosa lotteria legata agli scontrini fiscali. Dovrebbe partire ufficialmente nel gennaio del prossimo anno, del 2018, ma a marzo forse si faranno i primi esperimenti. E anche qui, io non capisco perché in Italia bisogna complicare le cose, al di là del fatto se sia una cosa giusta o no. In alcuni paesi del mondo lo fanno, uno prende lo scontrino, dietro lo scontrino c'è un codice, ogni mese viene estratto un numero, se quel codice corrisponde allo scontrino che uno ha conservato ha vinto qualcosa. Semplice, no? Peter, tu la faresti così, Peter Bescabè? Semplice, dietro lo scontrino c'è un numero, o abbinato allo scontrino c'è un numero, estrazione di quel numero hai vinto. Semplice. In Italia invece funzionerà così. Chiunque nel momento si appresta a pagare il bene che vuole acquistare dovrà dire all'esercente che intende partecipare alla lotteria degli scontrini. Per farlo dovrà presentare il codice fiscale. Contestualmente l'esercente trasmetterà all'Agenzia delle Entrate i dati della transazione per la quale il contribuente partecipa alla lotteria. Probabile che al cittadino sarà rilasciato, dopo tutto questo, al termine della transazione, una ricevuta in cui si conferma l'iscrizione al concorso a premi. Ma porcaccia, ma io dico, ma una cosa semplice in Italia che non sia avvolta, avviluppata da chili di burocrazia, riusciamo a farla? No, assolutamente no. Bastava mettere lo scontrino con dietro un codice. E invece, presentatevi col codice fiscale. L'esercente che nel frattempo si crea una fila di 5 persone. Aspettate tutti che devo inserire i dati, comunicarli all'Agenzia delle Entrate. Ah, ragazzi, mi sono svegliato così oggi, dici Peter, mi sono svegliato così. Allora, a proposito di soldi, sempre a proposito di soldi. Attenzione, perché su Repubblica Emanuele Lauria e Giuseppe Scarpa raccontano che il fratello del ministro degli esteri Alfano rischia il posto alle poste. Non è un gioco di parole. L'incarico alle poste di Alessandro Alfano, fratello del ministro Angelino, è finito sotto la lente d'ingrandimento anche di giornalisti d'inchiesta. 200.000 euro. E questo contratto d'oro rischia di essere dichiarato nullo. Scrive Repubblica, sul tavolo della Corte dei Conti è finita una relazione investigativa che segnala come la procedura di assunzione in Postecom di Alessandro Alfano abbia violato la legge. Quell'incarico da 160.000 euro lordi, poi lievitato a 200.000, è stato fatto senza alcuna procedura comparativa documentata e documentabile. Nelle carte giudiziarie si legge che l'iter per il reclutamento di Alfano Junior, laurea triennale conseguita a 34 anni, ha almeno 3 anomalie. Manca la scheda richiesta assunzione, non si ha riscontro di convocazione per colloquio, non risulta predisposta la scheda informativa del colloquio. Insomma, assunto a 160.000 euro, poi 200.000 senza colloquio. Addirittura racconta Repubblica che l'amministratore delegato Sarmi di Poste ha dichiarato che quello del fratello del ministro è stato considerato il curriculum più adatto in forza di una buona conoscenza del territorio del Sud Italia. Oh, beh, insomma, qualcosa che fondamentale per ottenere un posto a Postecom da 200.000 euro, così è lievitato il conto. E va bene, sotto i riflettori c'è questo contratto, ora rischia il posto per questa relazione investigativa alla Corte dei Conti. Ma eccoci qui, l'articolo che mi fa più incazzare della giornata, da mani sul volante o mani sulla cloche dell'aereo in questo caso, bisognerebbe dire, perché spesso si dice, beh, facciamo le espulsioni, quando ci sono gli irregolari accompagniamoli al loro paese. E ogni tanto succede. Volete sapere come succede? Succede, come racconta Vladimiro Polchi, in alcuni casi, come in quello documentato a pagina 17 di Repubblica. In 74 per scortare 29 migranti. Così funzionano le espulsioni. Il piano di volo è Fiumicino-Hammamet con scali a Lampedusa e Palermo. Aereo, un charter della Bulgarian Air, affittato dal Ministero dell'Interno. Ci sono 29 tunisini da espellere, con 74 accompagnatori. Un funzionario della polizia, un medico, un infermiere, due delegati del Garante Nazionale dei Detenuti, 69 agenti di scorta. Fascette in velcro legate ai polsi dei passeggeri, perquisizioni, carabinieri in tenuta antisommossa, spesa stimata 115.000 euro. Così il 19 maggio scorso sono stati riportati ad Hammamet 29 migranti irregolari. Un rimpatrio forzato tipo, raccontato in dettaglio da un rapporto del Garante dei Detenuti che ben fotografa le difficoltà della macchina delle espulsioni. Eccole qui. Vogliamo le espulsioni? Come è giusto che sia nel caso di irregolari? Mano al portafogli. Non è possibile una roba del genere! Vergognatevi, cazzo! State ascoltando un programma offerto da Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Alessandro Milan, le tourbillon dell'information, dialetton francesone. Bella questa in dialetto francesone. Cari ascoltatori, grazie. Allora, alle 7:35 minuti dobbiamo allargare un po' i nostri orizzonti e guardare quello che succede nel mondo, in Europa, in Gran Bretagna, in Cina, in America. Intanto la Gran Bretagna, che è fuori dal mercato unico, o almeno questo è quello che ha annunciato nel discorso la Premier Theresa May. Leggete Leonardo Maisano oggi sul Sole 24 Ore, pagina 3. Theresa May si svegliò falco. Il premier britannico ha interpretato in maniera massimamente estensiva il mandato del referendum del 23 giugno sulla permanenza dell'Unione Europea, conferendo a quel voto la missione di togliere Londra non solo dall'Unione Europea, ma dal mercato interno europeo e con qualche ambiguità residua anche dall'Unione Doganale. La signora primo ministro ha rotto gli indugi e ha annunciato al mondo che Londra non cercherà vie di mezzo, sarà cesura netta con l'Unione Europea, dunque una chiarezza che ha fatto bene alla sterlina in netto apprezzamento sulla scia delle considerazioni sull'inflazione del governatore Mark Carney. Gli obiettivi di Theresa May sono una dozzina. Tra i primi, un accordo di libero scambio auspicato e basato sulla piena reciprocità con i partner europei. E poi il secondo punto, il ritorno della sovranità britannica sulle corti europee. Il terzo e quarto passaggio sono la condivisione del negoziato con tutte le nazioni del regno, dagli scozzesi ai gallesi, mentre sarà garantita la Common Travel Area con la Repubblica d'Irlanda. Questo è un passaggio ostico, come scrive Maisano, perché sarà un confine territoriale, terrestre, con l'Unione Europea. E poi l'immigrazione. La Gran Bretagna è e resta un paese aperto e tollerante e vorremmo sempre lavoratori stranieri, soprattutto qualificati, ma il messaggio del referendum, ha detto Theresa May, è chiaro. Dobbiamo riprendere il controllo dei confini. Questi sono i punti che ovviamente ora avranno delle conseguenze, i rapporti commerciali, i rapporti anche nell'export, per esempio, italiano. Oggi Oscar Giannino ne scrive, poi ci dirà qualcosa sicuramente alle 8:15 sul Messaggero. E certamente tutto ciò è un punto di partenza da cui poi sì, bisognerà vedere come si svilupperanno le conseguenze. Rimanendo sempre in Europa, allora c'è da dire che è arrivata questa lettera annunciata, preannunciata su Repubblica due giorni fa, in cui Bruxelles ci chiede conto di 3,4 miliardi di aggiustamento dei nostri conti. A Roma la lettera dell'Unione Europea. Risposte entro il 1 febbraio, questo è il titolo di pagina 4 del Sole. Dobbiamo appunto dare delle risposte. La Commissione ha chiesto spiegazioni sul gap dello 0,2% del PIL nei nostri conti pubblici. Si tratta di 3,4 miliardi. Al momento non si capisce quale sia la posizione ufficiale dell'Italia, nel senso, in maniera ufficiale non ci sono dichiarazioni se non alcune prudenti frasi del ministro dell'economia. Vedremo, cercheremo di capire. Ecco, l'unica intervista che si registra è il sottosegretario dell'economia Morando, Enrico Morando, viene intervistato a pagina 7 del Corriere della Sera, dice: l'iniziativa della commissione era in qualche modo annunciata, non voglio neanche sentir parlare di manovra correttiva. Come ha dimostrato il dibattito dell'autunno scorso sulla validazione delle prospettive di crescita con l'ufficio di bilancio, c'è un rapporto matematico tra il livello dell'indebitamento, il deficit e la crescita economica. Anche noi avremmo qualcosa da dire su questi rilievi mossi. Da tempo, dall'Eurogruppo di novembre, è stato posto all'Italia il problema di uno scostamento dalla regola del debito. Da allora abbiamo avviato una discussione per vedere come affrontarlo. Beh, allora Mario Sensini chiede: scusi, si va allo scontro, sottosegretario? Vogliamo discutere con l'Unione Europea per arrivare a due obiettivi. Vediamo quali sono le misure che mette in campo l'Europa per sostenere la crescita, e in questo contesto siamo disposti a operare perché ci sia il rispetto delle regole, insieme alla conferma dei nostri obiettivi di crescita. In tutto questo c'è da registrare che anche Mattarella, capo dello Stato, che è in visita ad Atene, ha detto rigore sui conti, sì, ma anche sui migranti. L'Unione Europea batta un colpo. Ecco, questo è il richiamo dello Stato. Insomma, si preannuncia un nuovo braccio di ferro con l'Europa. In tutto questo, venendo alle cose italiane, la notizia politica più interessante del giorno ieri è il fatto che è stato respinto il ricorso di Venerando Monello, avvocato del Partito Democratico. Tra l'altro c'è anche un particolare così ironico: nella sentenza i giudici, invece che Venerando Monello, lo hanno chiamato Vagabondo Monello. Vabbè. E l'hanno condannato alle spese processuali. Cosa aveva chiesto l'avvocato, che è anche un militante del PD? Di annullare la elezione a sindaco di Roma di Virginia Raggi, perché per quel contratto con il Movimento 5 Stelle siglato, in cui Virginia Raggi, come tutti credo quelli del Movimento 5 Stelle, se cambiano idea devono pagare una penale. Secondo questo avvocato era causa di ineleggibilità di Virginia Raggi. I giudici invece dicono Raggi era eleggibile, no al ricorso sul contratto con il Movimento 5 Stelle. Questa forse è la notizia, ripeto, del giorno. Ecco, si attendeva questa notizia politica. Se volete, l'altra notizia è che è riapparso Renzi. Maria Teresa Meli racconta che c'è anche in questo storytelling una strategia per il ritorno. Se viene chiamata la strategia dei blitz. E che succede? È un marine? No, semplicemente Renzi. Ieri è comparso a Scampia. Ovviamente è comparso, cioè con tanto di foto, di seguito, di documentazione. È di ieri il suo blitz a Napoli, la visita a Scampia, così racconta Maria Teresa Meli a pagina 12 del Corriere della Sera. E ora farà altri blitz, come quello di Scampia, perché la strategia di Renzi è questa: io voglio stare tra la gente. Insomma, i giornali, alcuni con un po' più di enfasi, il Corriere della Sera una pagina, altri con minore enfasi, mezza pagina, un trafiletto, comunque seguono sempre, costantemente, le mosse di Renzi per capire come cercherà di tornare al potere. Un po' quello a cui punta Mauro Meazza, che salutiamo qui. Buongiorno Mauro, le tue strategie? Buongiorno, ma perché non capisco questo tornare al potornare in Champions, in zona Champions? No, lo so, anche. Ah, ecco, no, perché lì comunque abbiamo, devo dire, impostato una strategia, mi sembra, sì. Parlo della mia squadra del cuore, la mia squadra di riferimento. No, senti, purtroppo ti devo fare un passaggio radiofisco molto importante. Ottimo. Anche senza purtroppo, anzi ne sono molto lieto. Allora, da una parte, oggi con il Sole 24 Ore, hai visto che c'è questo focus, queste 16 pagine allegate per i nuovi bilanci, certo. Perché sono cambiate molte regole. E allora c'è questo allegato appunto per spiegare, per riepilogare queste regole, importante. Ma poi anche ti segnalo nelle pagine Norme e Tributi, che tu andrai a leggere appena finita questa telefonata. Religiosamente. Bravissimo. C'è la prima risposta a un interpello preventivo sui nuovi investimenti. Allora, il contenuto della risposta lo lasciamo, diciamo, agli esperti della materia, quindi non voglio affaticarti su questo, ma sappi che è importante, è una modalità nuova che viene esplorata. Avevi letto della cooperative compliance? Certo. No, non avevi letto, vabbè, non importa. Comunque leggi tutto su Norme e Tributi. Di Brexit già hai riferito, me ne compiaccio, così come della UE che ci chiede 3,4 miliardi. Ci chiede contezza di questo 0,2, che sembra poco, ma poi invece è tanto. Senti, visto che spesso ci ascoltano anche pendolari, persone che si muovono con i mezzi pubblici, eccetera, volevo segnalarti nelle pagine di Imprese e Territori questi dati sugli autobus, la vetustà di autobus e tram, di treni regionali. Allora, in media, ti dico solo questo, 11,4 anni di media come vetustà del mezzo, e per i treni 19 anni, quindi roba vecchiotta che andrebbe infatti sostituita, ma servono i soldi. Riferisce tutto, leggi l'articolo della meditazione oggi di Giuseppe Latour. Deutsche Bank si è messa d'accordo con gli Stati Uniti, gli darà 7,2 miliardi di dollari per la questione dei titoli tossici, e poi, infine, una buona notizia, non ci sarà recupero sulle pensioni, del recupero della deflazione sulle pensioni, sai che si era temuto questo passaggio, perché per via della deflazione forse i pensionati dovranno restituire qualcosa, poca cosa, ma è il gesto che conta, come si dice. Invece no, il governo annuncia l'emendamento al mille proroghe, l'INPS ha diramato delle istruzioni, insomma sembra che sia tutto a posto. Se non hai capito, segnati che lunedì prossimo, sì, c'è tutto pensioni, oh, lì alla sede del Sole 24 Ore, puoi venire, vieni e capirai questo e molte altre novità. E per il momento, caro Alessandro e cari ascoltatori, traffico! Felicità, è 24 mattino con Milan Alino alla felicità, Alessandro Milan, l'Albano e Romina dell'informazione. Felicità, vabbè. Tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Allora, non sono gli U2, quindi possiamo sfumarli con il massimo rispetto verso Albano e Romina, grazie. Allora, fa il bravo Peter. Allora, a proposito di banche, oggi La Verità ha in esclusiva una notizia che riguarda la quarta banca italiana, UBI. E Maurizio Tortorella firma questo reportage. Le accuse fatte da una dirigente responsabile dell'ufficio di controllo interno, ora trasferito ad altra mansione di UBI, si chiama Roberto Peroni, e questo sfogo raccolto dai carabinieri è abbastanza clamoroso, perché le accuse nei confronti della propria banca sono di riciclaggio, traffico di rifiuti, una banca in Lussemburgo che si occupava di operazioni vietate e poi cancellata nel giro di 27 giorni. Insomma, accuse clamorose raccolte appunto dai carabinieri in queste pagine di verbale di cui La Verità è entrata in possesso. 10 pagine che puntano il dito contro il presidente del consiglio di gestione di UBI Banca fino al 14 aprile 2016, vale a dire Franco Polotti. C'è da dire che Tortorella racconta poi nel dettaglio queste accuse, dicendo che la replica della banca è accuse che non si sono tramutate in capi di imputazione, dunque sfogo di Roberto Peroni, ex responsabile ufficio rischi della banca, che è tutto da verificare, che è affidato ai carabinieri. Ma tutto questo viene raccontato in prima pagina e poi a pagina 2 e 3 del quotidiano La Verità. Oh, per rimanere sempre in ambiti internazionali con orizzonti ampi, signori, a Davos succede quello che forse non ti aspetti, e cioè l'emblema di un mondo che cambia. In America abbiamo tra due giorni l'insediamento di un presidente, Donald Trump, che in qualche modo invoca, e lo ha fatto più volte, una sorta di protezionismo. Il ritorno al protezionismo. Dall'altra parte, a Davos, per la prima volta interviene il presidente cinese e parla di liberismo e libero mercato. Allora, voi capite che sembra che il mondo si sia ribaltato nel giro di poco tempo. E infatti Federico Fubini, a pagina 3 del Corriere della Sera, racconta: corrono tempi particolari quando il segretario del Partito Comunista Cinese parla a Davos come Tony Blair 10 anni fa o come Bill Clinton 20 anni fa. Stesse formule ben levigate sui benefici della globalizzazione, i danni del protezionismo, stessa voglia dei manager più potenti del mondo di credere a un nuovo leader che preservi l'Occidente nel modo che conoscono e che da tempo li premia. Se suona paradossale che il leader di una dittatura dirigista divenga il portabandiera del liberismo negli scambi ispirato da Washington e Londra 3 decenni fa, è perché l'ultimo anno non ha portato i problemi che erano stati annunciati, ne ha portati altri. A Davos, 12 mesi fa, tra economisti e grandi investitori, era di moda interrogarsi sulle probabilità di un collasso finanziario cinese, non su quelle che il referendum sulla Brexit o le elezioni americane producessero strappi che nessuno allora pensava possibili. E allora Xi Jinping, primo presidente della Repubblica Popolare a presentarsi al World Economic Forum, ieri ha avuto il tatto di non ricordarlo nel suo discorso durato quasi un'ora. Nel 2016 la Cina ha tenuto la rotta e ieri a Davos il suo leader, composto, quasi rassicurante, sembrava perfettamente consapevole di avere un'occasione da non perdere. Poteva parlare in nome degli interessi dei partecipanti al rito del World Economic Forum proprio mentre questi ultimi aspettano di capire se Trump dalla Casa Bianca sarà imprevedibile e spiazzante come era in campagna elettorale. E tutti i giornali si concentrano, anche Repubblica, Xi Jinping sfida Trump, la globalizzazione è come un oceano, non si può scappare. Cioè, voi pensereste che i ruoli dovessero essere invertiti, e invece no. E infatti, Avvenire, la Cina, campione di protezionismo, nuova paladina del libero scambio. Dagli Stati Uniti c'è da registrare, ultimo atto, uno degli ultimi di Obama, la grazia a Bradley Manning, colui che è stato accusato e condannato, doveva stare in carcere 45 anni, e è stato accusato di avere passato, no, 35 anni per la verità, doveva stare in carcere, di aver passato a Julian Assange da militare in Iraq tanti documenti che poi sono finiti nella cosiddetto scandalo WikiLeaks. Tra l'altro Bradley Manning nel frattempo è entrato in carcere, ha cambiato sesso, ora si chiama Chelsea. È stato graziato Obama grazie alla talpa di WikiLeaks, scontava 35 anni, ora è stato rilasciato, o meglio verrà rilasciato a maggio. In Italia invece noi avremo ospite tra poco Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano Cucchi. Ci sono novità perché ora ci sono 3 carabinieri che sono accusati di omicidio e dunque rischiano e vanno verso il rinvio a giudizio. Sono 3 carabinieri, Cucchi pestato con pugni e calci. È una vicenda che ormai è lunga 7 anni, con tanti processi, tante polemiche anche. Ora questa novità con il probabile processo a questi 3 carabinieri. Per quel che riguarda invece la cronaca nera, c'è da registrare che a Napoli è stata sgominata una banda dedita allo spaccio, e la notizia che però finisce su tutti i giornali è che c'erano anche bambini, anche una bambina di 8 anni utilizzata per confezionare droga. 8 anni. leggete Roberto Saviano in un articolo che probabilmente, non so, rinfocolerà o forse no la polemica con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. In prima pagina di Repubblica oggi Roberto Saviano torna i bambini della droga. La bambina di 8 anni, Giovanni 13 anni, pusher nel cuore di Napoli, racconta Saviano. Bambini napoletani identici a quelli di Rio de Janeiro, Ciudad Juarez, Johannesburg, i bambini afghani. Lo faccio vedere nella mia pagina Facebook, anche nel mio profilo pubblico, visto che siamo in diretta. Oh, ci sarebbero altre cose da dire, ma c'è solo tempo per la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Allora, eccolo qui, una pagina del Corriere della Sera di Elvira Serra sul bon ton da tenere in ufficio tra cibo e rumore, borsoni della palestra tra i piedi che fanno inciampare i colleghi, ne sappiamo qualcosa anche noi, sushi mangiato sulla scrivania, telefonate o videochiamate ad alta voce. Qual è il bon ton da tenere sui posti di lavoro? Ma chi se ne frega!